bene se... Eia! Non mi hai capito. Anche da putte due, per dormire. Ehi, cos'è che sei con me mente? Mi sono rilassente. Ma ti sei abbronzato di oggi, ya. A perire, cazzo, una bella sdraia, a dormitare da pesci, cazzo. Ah no, in costume da bagno. E a te me lo boccio nudo, sono schiacciato con te. Ah, che ci sono vicine che guardano. Ehi, a te vedi chi? Sì, vicine, a destra e a manca. poi sono invidiosi. Infatti, allora. Cazzo, si può arrabbiare a casa, a voi magari scappati che viene la canale di Buru. Allora, non chissà se ne muori. Non ribare via che sai niente. Fai sentire stare su, no? No, appena acceso. Ah, io pure appena acceso. Tu parla da giosso. Ha giacciato lo scooter, fino a là, l'ha giacciato. Ha già attaccato tutti, mi sono composato in atto. Ed è il bosato e cadinetti. Io ce la vedo, dove? Ho potuto pigliare a Platina a Platamona. Allora i due faremo a Platamona. Allora, passava a mia figlia Graziano, Buru, l'ossigeno. Graziano, attacchiamo un carrellino se moriamo presto. Allora. Che ci ripete che stava a commissare, che girettino che ha detto, diciamo, le fosse. Capito, si riesce a fare a capannino. Sì, capita, ha fatto io da aiuola, tanto pare che ora seguivi lì. Poi andare a lungo, non capita. Si lasciamo la manopola, si non aspetta per il sequestro. Ma va, te so più senti. Ero andato a campugna, ero andato pure. A me pare chi si rimane sempre in magazzino, ha di un'impressione, di come sai che tutto loro così, è caribiglia, se stai che senti, poi l'accelerente mi fa chiamare lo braccio. Te la gente di già mai sta persona? Ma sulle fratture non fate niente, chi se lo... Catta, una slogatura, uno strappo va bene, ma... E se ci fa giro non mi fa di niente, chi sono? Ti fa, insomma, ha fatto a me, certo, non fa da te. Tu chiamalo, vedrai che ti risolvi. Tanto te lo dici subito, si può fare e non si può fare. Non è che ti fa di capito, è poco di... Andati, vediamo un po' come è la questione. In caso mai il problema, bisogna provarli tutti, chi sono il video. Certo. Ma chi caso oggi lui è mai stato mi la birra a battire. Se non riesce manca a guidare su quando l'ora dà il manzano. Non riesce a guidare tutta a sinistra, fazia, ciambà, però non fazia male. E infatti, tanto te lo dici, si può fare o non si può fare, non è che ti fa dei pinti di nausi, capito? Tu chiamalo, gli aprirà l'ora dà un numero pure. Va, finiamo un poco, dai. Ok. Ti aspetto un attimo, la riprendo subito. DJ! Bello! C'è giuro! Uffa! Luca! Peppa! Cantami pesce! Ti era chiamando Gufo! Ti era chiamando Gufo! Santo Capriolo! Ti era chiamando Gufo! A me! Ma mi stava chiamando Gufo, così hai detto! E a te! Trommi! Adesso ho finito di fare il soffio delle palline! Mi Luca ne ha due! Forse riesce a sollevarli, Luca! bocca. Beh, ci sono tipo garriga, sono parati. Aspetta, grazie, il cuore della battuta, Eia, Luca, indovinato. E allora, boh, non so di plastica. Quale ho? Tre, una da 1200, una da 900 e una da 600. Adesso le sollevo tutte e tre, aspetta. Vai figa, vai, tutte e tre. Due sì, l'altra a metà, quella da 600, perché la più piccola è al terzo binario. Sì, al binario di Sussu. Sì, al binario di Sussu, grazie. E tra la terza pisanti, a fine, questo dice il Luca leggera. E allora, esci proprio la fasulpata, aspetta, pronto? Oh, due un pochettino. E meno male, bisogna arrivarci, no, è chi dà ragione, grazie. Oh, già, per carità, grazie. Ma, vabbè, si scherza ogni tanto, dai, grazie. Vabbè, se non me la abbi così cosa, ma magari domani non si gioco, a fine a posto. Cosa vuoi fare? Ma, aspetta, sembra così, a vedere, io non che vivo un motocompressore, vivo. Evidentemente non carica più, grazie. Non carica più, allora bisogna lasciarla riposare a posto suo e basta. No, adesso ce l'ho fatta, adesso forse ho capito come bisogna fare. Continuare a aspirare e cercare di resisterlo il più possibile, reggerle sino in alto le palle. Fai finta che ti soffrendi dal coltello. È un affare così. Ci sono tre palline, una rossa, una gialla e una verde. Tre cilindri, un tubo corrugato con un bocchettone, tipo l'alcol testi. Ma per me è una pallina di l'hanno intruccata. No, questa ruglia è maggiorata, la buia, la gialla, la buia e la vinci. Questa va però, perché è verde, giallo e rosso. Se le sollevi tutti puoi passare, perché è verde. Invece se ti viene buttato un marcio sopra questa ruglia, allora sai come tenere la piazzata. Amici, ci sono graduati. Allora, aspetta, non giù, cosa avevi scritto? Aspetta, poco occhiale, allora, avevi scritto. È tutta norma di legge, io che ti canta i bizzu. Io che Davidu, 12 litri cc, cosa avevo scritto? Per i secchi, io che 900 cc, avevo scritto per i secchi, e io che 600 cc per i secchi, beh. A me mi pare in Sapparini a grandina da puzza. Dai, boccio, rubiamo dritto, grazie. Apri, a vedere, controllala. E infatti, quando loro si fanno più mi gioca a ballucci. Delle palline, belle sono. Avanti non me ne posso più, ma ci fa l'aria solo. Signore, che ora sono le 6:20, da. Dopo rientro, che mi preparo l'aria solo e me ne faccio un po' di aria solo. A dopo, va, riprendetevela, Luca. Ha giudito, se ti viene buttato un marcio sopra questa ruia, a vedere come tenere la piazzata. Già riesci a stare il giubba, miracolo. L'altro giorno niente, ma così muoviani, A me mi pare che, cazzo, tu hai detto che sono belli. Pare che sono più belli che si del bello, cazzo, i cipallini. E che ci tratta lì? Non risolvi, vale, grazie. Sta giusto che sei pieno di biombo, sei pieno apposta. Hai visto? visto, ho consumato piatta, vanno già stati solo due, fa miracolo. Cosa ti ha detto lui? Ma che abbonelli una tazzetta d'acqua a vita sopra, i cipallini, allora diventi zaffani. Magari! Luca, buono lo caffè con questa macchinetta. Gianmarie, i soldi della motosega li ho investiti stamattina. Macchinetta di caffè cappuccino nuova. Collaudata poco fa con i pasticcini. Un treno, tre caffè e un cappuccino mi ha giubito. Ma non fai caffè come tre caffettina, c'è poco da fare. A me verrà la rappresentante, no, che tre mesi fa ha fatto la proposta, no, ma tu te ne dire, no. Il caffè mi piace, ho fatto dalla caffettiera, è più buono, diglielo lui. Sta cosa, ma quella crimine ogni tanto gli è buono. Guarda che li ho assaggiato altre volte in altre macchinette e non mi biasiani. Qualcheduno, mica quella di mia figlia, li fa di buono. E questa qui li fa buono, buonissimo. Devi vedere il cappuccino come nel bar, uguale, con tutta la schiuma. Ma domani mi voglio a fare le pacchette con un cacao. Ma che fare molto di sapore, fate le buscicche, se caffè è pagissimo, fate la sciuma. E la bassa qualità rosa, ciardi. Una tazzetta con un cuoricino. Pareggio. Giovanni, una e una a me moglie. E c'è musica a dire, da te grazie. No, sarà la Luca. E Lu. Sì, sì, hai. Allora su internet, beh, Antonello sta vendendo un baracchino, adesso non so che baracchino è. La descritti quanto lo stai dando, non mi ha ripulso. E Luca, manicomio l'ha scritto 20 euro. Compradino, grazie, compradino. E allora, oggi scritto quanto lo stai dando? Dando la motosega, così. Me l'ho venduta, ora me ne vuoi. Stato in campagna, l'albero si è fondato, non faccio andare a travagliare, fa praticarsi in garage, non va nuova. L'ho venduta avanti ieri, o tre di fa, avanti ieri forse. Brava, io sarei serviata a Gian Maria, non vedo l'altra. Ma se Gian Maria ha un caraccio di motosegni, non solo. Mi la buro con l'assa, va. Arrivi, buro la testa e li trocca tutte le antenne. Dimmi il Gian Maria. Chi si vede che io, tu gli avrà. Mi dà una dozzina. E sono tutti nuovi nuovi, vino. Finne roba di 58 a me, Diglielo lui. Ma grazie a Gian Maria collezionista, sicché è pure in attento. Tu ne avevi 101. Io era nuova nuova, mi si lascia trattata due o tre volte, con questa motosega ne ha già andato due dizi. Lo dito di la mano di Paoletta che l'ha già visto. E lo dito di un amico mio, di un cugino di mia moglie, che è morto da poco, Paolo. Hai sfilato da stranciato di netto. Fatta. Transumatore sì allora, grazie. Buonasera. No, allora, non tirare quel ramo, picca a tirare un ramo e mi è entrata la motosega alla mano e le è andata a finire, l'ha rammennata la mano e gli ha aperto un po' la mano. Chi dà l'imbecille gli dico, mi non sta appoggiare all'albero, già ne scende da solo. E mi dice, no, mi sta appoggiare all'albero, dalle voci e se ci dentro l'albero e la motosega ha preso, è nata Rudy Giusuio. Oh boh. E beato! Beato che si sente! Ebbè, buonasera, beati che vi sentite voi. Ogni tanto mi entro a salutare. Oggi l'accendo a vedere com'è. Tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto, a tu! E tu? Sei va bene, dirò! Ehi, ogni tanto, qua via la. Anzi via la musica a tuo volume. Dai, a caggio sempre, non è diviso. Buongiorno, ciao, Antu, a dopo, fra un quarto d'ora, 20 minuti, là. Ok, riprendetevela. Scappa, no, Gio Mari. Poi, sparito, Certo. No, si sa se non andate bene questa cosa, se non andate bene, penso di sì, e perché era nuova, così che... No, l'hai inteso più. Non lo so, no. Beh, se l'hai avuta io quando l'ho guidata andava perfettamente bene. Da voi non lo so. Sì, farà sentire. Non ti ha telefonato, vuol dire che la questione andate bene. Ok, mica anche Luca, Flippa, il bello è. Non è più Flippa, è bello. Ciao Luca. Ah, ti andava bene, l'hai da pure ti ho trattato io, anche io non ti ho trattato un bene, chi si riconosco. Mi conosco alla perfezione. Quando l'ha giù trattata io, l'ha giù provata a me, così che andava bene. Ehi, già lo grido, era nuova, ragazzo. Io non l'avevo manco trattata. L'ha giù, due volte mi l'ha giù provata, l'ha giù fatto un girino che basta. Immagina. Luca! E a tu, qui se ti serve una moto, puro, elettrico. Non lo so. No, va a mandare così. Prezzo stracco barato. Non mi metti no. E a contabombole. Io pure a me faccio viaggiare un bel con la mia, già la vita domani. La mia bomba, la mia andava. Allora ho provato quella, non era male. L'unica cosa che ha di diverso è che... Vabbè, io sono abituato a piegare un po'. Devi punire i pedali un pochetto più sopra, perché sennò come vai a piegare toccano, sono più bassi della mia. Adesso ho abituato a pigiare in curva. Addirittura. E guido così. No, c'è i pedali molto bassi quella lì, bisogna stare un po' attento, se non ti lamenti di tutti. Ma che tieni a tenerli a metà. Gian Maria con chi sa quattro bombole da 15 a riga. Mi pare che poi mi vede stato scutto a me adesso, tanto, cosa da quando l'avevo bigliata, prova da solo l'avrebbe bassa. Mio Antonio ha detto che si facciamo con quattro bombole da 15. Era tu. Io che so come. Lo dobbiamo la fare a tu, dai. Paravano lo so. Cosa che tu cosa va a lupo? Non mi dirà cosa va. Lo gioco, ma non venuta a Paravano, non viene proprio. Io vine, hai il baccato che ti fai dare di là. Dove è che sappiamo la patente? Questo è ben interessante, vabbè, la patente è ben interessante. Eccola lì. Ehi, siamo motori non ti serve, mi ha detto. Anche a posto d'ora, riera. Sì, devi andare, puoi andare in dettaglio. Già a posto d'ora, così, si para la riera. Adesso non arrivi pure a terra, non arrivi. Ehi, perché di sabato è rientrato domenica. Pure in due puoi posare, mi ha detto. Tu hai la piscina, mi siete bene, mi so scuttere. Vai, si parla di tutto. Oh, ci fa passare fuori due minuti. Oh. Eia. Ma si può passare fuori due. Lo so, ma non è omologato per due. Oh. Vabbè. Ma pure c'è una buccia, se l'ha acciappato. Ma non sai come ti fanno in Italia, no? Lo so. Ma a me mi piace che da maniera. Se era meglio la moto, a Romanco, troppo pure di più. Oh, a Napoli, da poco, da prima mi sono una cinquantina, tutti modificati erano, e chi si scusa, tutti canti, perché se ne usava tre, ne usava quattro, birchini c'è ancora, mamma, capito? Te che ti danno il bigiato, gatta. Lo so, gatta, ti modificato. Oh, che sapore modifichiamo, va? streghismo incredibile con queste cose. E passare la danza di PG, bussate in tre. Ma sai cosa bisogna fare? Bisogna pigliare una moto 50, con il targhino e si è a posto, non ti rompe le palle nessuno, poi bussate pure in due. Casco, ecco. Ehi, ma lo sai che mi sono camminato, pure io che mi sono bello, taglio mi sono, una candela, il nazzare male, adesso a casa è passato un buoni vera, cazzo, però per la lava. Io lo so, Giulia, pure la mia adesso è pure in città che la lavo, io, già cammina. Oh, ah, picchiate, ma io andiamo in due. Attacchiamo un garrino, andiamo a plantamore a picare. Comunque sei già mariato, sai non te ne fai il culo, che te la lasci come a tu. Io non te ne alcuni a cucciare. No, già anda, se la sei trattata te la puoi andare. E poi buoni pure il baracchino. Mi pare per un bocco, mi l'attacco. Che cosa ne dico? Ah, per attacchiamo. Io poi ma la direttiva, pure. Sì, la direttiva magari in piedi che ha. Ah, invece, attenda, pulimo e abbiamo là. Ah beh, allora pulimo la manto qua. Questo piano di stazionare già funziona bene. Sì, certo. Dai, regoliamo il stazionare, comandiamo lui, comanda l'aria. Anda, vai già. Non ricolleghiamo l'impianto stereo sotto la sella. Ho visto una vespa con l'impianto stereo, bella cazzo. Bel pianto stereo che ci ha fatto, cazzo, è un bombone, bello veramente. L'hanno infatti un po' di niente, allora. Allora, certo. Oh, cagato, l'ha fatta, cazzo, la macchina stereo, il pianto stereo, cazzo. E poi funziona bene, diglielo lui. E non è che questa vespa che hanno fatto con l'impianto stereo, quelle cose del cinghiale, quelle parafanghe del cinghiale. Vedo un po', a tu. No, ce ne sono tanti che l'hanno fatto in passato, hanno collegato le batterie, quindi l'hanno infatto. Ti ha finito, hai! Senti che buffano le palline. Adesso la pallina si può alzare, si tiene di essere piena di piombo, ma questo se la fa alzare stasera. No, che non lo sto preparando, già entro appena finisco, me lo devo preparare. Ma non sei preparati? La ne lo so, la ne lo so anche delle medicine. Ah. Quello vuole preparato. Io credo che in campagna oggi, tu grazie a te abbronzato da oggi a soli oggi. Ah, io a tu, dimmi, illuminami. Adesso ti lascio, dai. Ah, è già ora da acciappare la pischellina, no? Oggi no. Ah, e allora... Presto non finire, ma stai fermo con le mani però, stai fermo con le mani, poi ti bisciacca, mi raccomando, Che tu fermo con le mani? E fa froscio mai bigliato, cazzo. No, cazzo, appunto malissimo, che tu sei malesco, dai che la vengo, finito di chi, a dirti, andare poi ti bisciacca le mani. Ah, andavo lì. Ciao Mari. Sì. Ma sei già in mutante, come ti fai a ponersi le mani in busciacca? Per forza. Ma io mi ho compreso, Ennu. Falla andare che ci mani, falla andare così ti cagli il motore. A chi si chiama, Graziano? Da poi fai si fea a me. A tu, fai da bravo, A tu, da... Trota, che se non si fredda! Ehi, andiamo a vedere, non si può! E allora la figlia di Maria, pompa! Ehi, Graziano, subito! Un po' troppo in presa, Graziano! Già pigliata con sua filosofia però, se no non andare. Grazie, amici rubabo già lo conosci. Ehi, via, va bene, proseguite che io mi aspiro. Ma ti aspiro? E cosa aspiri? Aria solido. Graziano. Dimmi. Tu va a Bugiaro, conosci? Oh, io lo conosco. E da lei? Gavino, casi l'inchibro rione d'uglio. E di l'inchibro. Ah, ella. Va bene, che mi faccio la rosa, sennò da voi è già stato. Non so se si va qui in TV. A dopo, se stai chiudendo tu. Alla prossima. Ehi, ciao. Sto chiudendo, Giomari, dai, ce la sentiamo. Ah, coraggio, ci sentiamo, va, buon proseguimento. Ci sentiamo, salutala, dai. Ciao. E Luca morto, Giomari. Giù pure sta di pure la mano il burrone, mano la ciappa. Sarà con perché negato un rone, gli ha di che ce l'ha dimenticato, lo durrone. Luca! Hai inteso cosa ha detto Grazia? Maleducato. E allora, è troppo boccaccione, cazzo. Beh, è volgare, è brutto, cazzo, per carità. Che si arrivi! Ungi! E attore mio! E Betto! Sì, buonasera! Che si arrivi! Va se un ridì! Meglio ridì che ti mi! Mi vittore! Ehi, Lu! Ce l'ho visto di nuovo su Facebook quel video! Hai visto, bello pippante, Graziano! Ah, tu, hai sentito? Sì, gliel'ha inteso. Graziano cosa ha fatto? Stand by. Ha giocato il socchio e fallire. E quindi è buffato, un bel. Sì, faccio le labbra che cappa dell'online. Niente. Candemmo bene. Vabbè, faccio la ronda dopo rientro, fra 10 minuti, 4 ore, forse è prima. Sì, fermo così. Fai, grazie, fai, mi raccomando. Risciuta, rubire chi, risciuta. Luca, va. Luca, inventami qualche cosa, mi. Boh, o se prende la crema, che oggi si è bruciata o c'è sole. Ah, se ne è andata a pisciare. Sì, vero, Lu. Bruciato ti sei, no? Mi sembra che stia attendendo il fuoco. E chi sa ancora se è un fuoco, gatto? Ma lo so io. A canta, a sapere se c'è ma con un guascio. mi vuol tempo a sentirlo, mi. Ah, vabbè, chiedo pure il regna, tu accendi quella regna, Legna grossa pure. Certo. Già. Lo so io. Ah, che? E poi legna dura. C'ha un bel odore, vero Lu? Odore a loro. Ma è Bacchisio. Sentito l'avete. Ah, Bacchisio, boh. Deve essere ancora in affia della Calafiori. Gatta, bubù. E allora, domenica è in affia, tu, gatta. Ma io ci fa sentire più tardi, ancora è presto. Ancora sarà in campagna. Ipera! Iparito, Tazzi, la basante si manda. Buh. Attento, Bacchisio. Oh no, è impegnato, detto. Se non è impegnato, o è ancora in campagna, o è impegnato. Beh, stasera gli raggio hai bicicletta o no? No, mi doni i ranchi, mi doni. Ero da me che non abbigliava, mi doni i ranchi. Non ci sono uscito, mi sono uscito poco fa con lui. Sono uscito. Ha già fatto va un giro. Casa, cosa ha già fatto stasera? Verso le 4 meno 20. Guarda il magazzino. L'ha disciappato lo scooter. Ha già attaccato tutto quanto. Mi si sono bussato sopra. È vero, camminetto è bussato. Ti hai fatto un giro. Oh, e il magazzino, Mattesi, il cavalletto cammina, oh, il motore. Gatta, e gira la ruta. E io sopra abusato. Davvero, se no, ma ha fatto un giro. Oh, è andato a gara, mi do il braccio, gatta. ero proprio a Capandino, però forse no. Però l'ho provata così, no, la sboccia a Capandetta, ho attaccato le batterie, a chi? Il radicciacco la batteria, no? Attaccato tutto, e l'ho fatto cambiare, una mezz'oretta così. E io sopra abusato te, ah ma così cammino. Certo, andiamo bene, andiamo. E allora no, no. E magari qualche buccia già andava a cavare, a fare la camminata, ma chi non catarino, capito? Oh, ma la giudava a provare così, no? Con la batteria a carica. Mi manca il tacchetto sulle seppiere, così che, la Puglia, qua la plattamore alza, buro. Vabbè, piano piano, mi ricordo come sta a fare più caldo. Chissà che bellissima, a Cavanira, pare così, ma non per la forza, ma mi ricordo i prazzi, cazzo, se fai immaginare, cazzo. Forse anche paese, se no magari nella mia capata stasera abbiamo fatto il giro al macco in un casarito, ma hanno fatto forse fare così, ma non li posso manco girare i bracci, puoi immaginare a Tigilla, oh ya oh, anda per anda va, voglio la mamma, un po' che se mi la bacchina, vedete, domani sì. Se fino a bacchina e salotti, domani magari io ribusso un pochino, bravo. Ma mi dura lì una di e mezzo, dopo incomincio a torre, capito? Capito, sempre bacchini. Quella cosa, quella, salto, da ragione, ci sono presenti. Che tu, io qui, caro filato, lo sa, ecco, faccio con te. Secondo un movimento che fai, sì, ma la mamma la faccio, non ve la posso, vi puoi immaginare. No, per la forza la mamma la faccio, lo mangiano. Capito, quella vede una triccia, vi puoi immaginare. Ma se invece cambio un bico, ma sì, magari mi vuole più poco, riesco a farlo e mi lavo me pure, capito? Ma se non ve la fai, cazzo, io voglio, dovrei fare quemmi. Dolore feo. Non lo so, sì, cosa vuol dire. Già un braccio io. A voi che mi veni, a voi che no. Certo. Per carità, ogni tanto ne sappia che cosa. Ah, mi fa di male pure lo sinistro, però lo sinistro riesce a farlo e posso fare che cosa. Guidendo la gente mi dà di male, quando andrà a ciambare i marci. La cosa di tanti è fatti male, è secondo il movimento che fai, capito? Ho capito. Attento, signor Marchisio! Oh no, chissà quale campagna, ma fra poco è a casa, per cui lo sentiamo, anzi, abbracci di grande assente, buco. Otto! Ehi, Gianmari! Cosa fai, Duai? Quando fa vedi impari lo volume da... mi segnare il volume dall'altra frequenza. Sì, deve fare così. Sì, lo fa anche a me. Vai, fa anche lo tuo. Pensavo così mio solo. Ah, no, si chiude... il volume si chiude. Direttamente. Ma lo fa anche nel portatile. Ma lo fa, lo sa perché lo fa? Perché sono sempre in U, capito? Perché sono tutti e due in U, capito? O in U, volevo dire. Io, vedi, quando parlo mi si chiude anche il portatile. Sai che serve? Mentre invece mettendo un'altra frequenza non lo fa. Ah boh, non lo so. Se tu provi a mettere 145, 525, parli e non succede niente, perché la frequenza è diversa. No, a me non fa lo stesso, mi si chiude la... quelli stanno parlando, parlo io e mi si chiude... quella frequenza lì mi si chiude. Sì, perché sono tutte e due la stessa banda, capito? perché sono tutti la stessa banda. Invece se tu metti a posto di 4,31 metti 145, 125, non succede, è una banda diversa, capito? Ah, nel mio qua, cioè nel coso mio, c'ho un'altra banda diversa io. Ma ci metto un'altra banda e non succede, non sa nulla, capito? È così. Se già te lo spiego in verticale, te lo spiego, che è meglio. Sì, prova a vedere, se c'hai quella frequenza a togliere, ci metti 145 e provi 145, 525, non succede. Ciao Maria, te la spiego quando siamo in verticale. Sì, è importante fare lo stesso lavoro, allora. Io non c'ho importanza, lei me lo fa lo stesso. Aspetta! Aspetta un attimo, Gian Maria, che mi sto facendo un cavetto. Sì, faccia. Luca! Luca! E me dormiti vi siete, belli bene! Graziano! Dimmi, tu sei spariti solo, boh! Sì, io mi sono cassintato. Ciao Gian Maria, non so cosa c'è ancora. Gian Maria! Sì, sono qua, tu! Sì, sono rientrato. Andate! Fatto mai questo caffetto! Oh, è venuta gente, non ho fatto nulla. Grazie, allora senti bene invece, gatto. Cosa ripete, grazie, ma niente! No, ho finito, l'aria zombie ci ha fatto tutta la roba e mi l'ho ritirata. A ti piace, se a me vivo coraggio, su compro e vendo nel mercatino di Sassari. Chi si imbecilla a posto? Dentiera usata da poco, è vero, una lentiera, vero? Roba la manicomio. Come mai, grazie, come mai? Ove, hai copiato cosa ho detto? Chi tu tipo, se vendendo la lentiera usata da poco, vi scritto. Due baci, sono due dentieri, ma sono del gabbo. E capi 150 euro, dentiera usata da poco, questo è scemo di cervello. Boh. E allora chi c'è? Boh. Chissà cosa voglia fare. Chissà dentiera deve essere di cacca di uno che è morto e ce la sono vendendo. Il figlio. Torre ti interessa? Torre c'ha le sue ed è tranquillo. Cazzo è nuova, mi guarda, due sono. C'è il pezzo di sopra e il pezzo di sotto. Però chissà mi pare che è antica. Perché il pezzo di sopra c'ha il pezzo dell'appalato anche. Quella che fanno adesso non ne hanno di quel pezzo. Dove l'hanno messo? Sui B? Tu compra e vendo, vai su Facebook e schiacci dove c'è quella casella, compra e vendo e ti esce tutta la lista della roba che c'è in vendita, Sassari anche nei paesi. Chi tu è avanti, lo dico, Sassari, posizione del venditore, ma è pure il nome, si chiama Vincenzo Nicazio. Se ne capirei da tiere si vende, ragazzi. Non so chi, boh. Sarà che è parente di io che è morto. Se fa recuperarla, se ne prendendirà. Cosa vuoi dire? Che schifo, io mi vivo un coraggio. Una lettera è personale, noi l'abbiamo vendita bocca a bocca. Pucci. Non deve essere nessun caro di cervello. Una nuova. Cosa? Ogni tanto intendi una nuova. Ma si mette il tuo corpo, la divisa la rimane, va venduta via che non ve la piglia. Mia vera, vendendo invece mi torna. Ma che poi ce la piglia la lentiera, ma chi sei macco? Io ce la cava da che mosso. E la mattina può fare di là. E che la piglia. Una ci ha messo le quattro volte che ci può fare. una persona non ti pigliano. Beh, è logico, innanzitutto sono fatte a misura, non ti dai che ti pigli una lentiera uccetti e ce la sacca in bocca. Da appalato ci abbiamo, noi avevamo l'appalato tutti precisi, cioè tutti precisi, ma le misure sono sempre diverse. Tore! Gian Maria, sono qua! Ah, senta Graziano! Tore! Ehi, cosa c'è, Grazia? Mi sto vendendo, ci compro e vendo una ventina, anzi due vini su. Per un pezzo di sopra e un pezzo di osso. 150 euro, ti interessa? Senta, chi si vuole arricciare dopo? Ma ti pare che uno deve morire una dentiera che è in vendita? Che te deve darsi il guascio chi su? Caccia in macchia, 150 euro. Per Cristo vendo mi dentiera usata da poco, euro 150. Due baci a su. Due pezzi di sopra e due pezzi di sotto. Una è più larga e l'altra è più stretta. Ma chi c'è Marco? Sarà di cacca di uno che è morto. Senta, pensa un poco, Baredina a me. Baredina cosa fa, Zini? Sì, ma chi vuole se la compra la lentiera, una lentiera, se vuole fatta su misura. Non è che piglia una lentiera, oggi ti se la zacchi in bocca. Vogliono fatta su misura, da palato a palato. Cambiano, mica ce l'abbiamo tutti uguali, o no? L'osso, la bocca, giamba, no? Non deve essere sincaro di salvito. Sì, grazie. Gente qua, sta venendo un bel... Viene un bel gente qua, sta dentiera, boh, quindi... Boh, gente qua, sta, oh. Qua, se vai su Facebook, schiacci dove c'è lì sopra, quella casella col tettuccio verde vicino alla campanella, ti esce tutta la lista della roba che c'è in vendita qui di satari, di fuori, c'è tutte le fotografie e l'elenco della roba che stanno vendendo, mi zaino militare 50 euro usato per il nuovo, tante cose ci sono, ma non puoi venire una dentiera, roba a pazzi. O dei che ci va bisogno di denaro? Sì, ma non va pensato, ma che se la piglia una dentiera? Ma stiamo scherzando, uno che è anche igiene, due che non avrà mai andato bene a nessuno perché sono fatte su misura, o no? E infatti, sono fatte su misura, sì. E allora, noi dobbiamo essere cacca e macco, nella bugata cacca e muto, da un campo usato, quando non hanno bugato, ho esumato qualche cadavere, l'avevo di 30 euro. Boh, altre immagini di Jean-Marie. Si è ammalato a fine, si è fatto questa azione, ragazzi. E traccava per anche il muso, e si è perdente. Stavo di capo, che stava proprio ammalato a fine, poi specialmente i secondi. Aiuto, cazzo. Ma basta che in Italia, che per intanto non intendivi una, cazzo. Permesso. Prego, signor Bacchi, buonasera. Buonasera, signor Tore, signor Figaro e signor Graziano. Buonasera anche agli altri che stanno ascoltando. Ma chi sia quella parte là? Avanti, Tore. Sì. Zappato avemmo oggi, ho innaffiato. Certo. Avemmo zappato. No, non ho compreso. Ho capito. Non capivo nulla. Qui c'è la televisione, ero su poco fa. Mettete a scaldare quelle radio lì. Ma chi? Ti interessa la dentiera? Ma usata, mi interessa. È usata, usata, sia sopra che sotto. Pensa, ce n'è due in vendita, sono 150 euro. Non affare, Graziano, non affare. Ce la compriamo in tutte e due. Io mi prendo quella di sotto, quella di sopra, oppure quella di... Come vuoi tu, ti metti a scegliere. Ma mi vuole la mandibola di un cadavere, sarà di cacca e morto. Ma se andiamo a pigliarla. Roba la matica, quella è da arrestare. Ma mica vivo coraggio. No, vivo coraggio che devo compareggia. E chi c'è la compareggia è peggio di tu. Ma quando mai una lentiera bocca a bocca sono diversi, tanto per cominciare, quelle lì sono fatte su misura, uno, due, e poi l'igiene, chissà di cappuzzino suera. Non andare mai mai a chi, ognuno va l'impronta a gioia. Dici che la compareggia è un bucarotto. E allora, ragazzi, la compareggia, l'ultima. Magari la gatta lo scemo qui. Di cazzo sono 50 anni, di che sono rimbambiti. Per carità. Che si acaba a posto. Che a cadavere va a posto. E allora, chi se ne la bucata da un campo usato che andava nel giumatto? Cacca l'oculo. La uda è mezza la bondezza. Telefono, riprendi tu. Sì, certo. Boh. Mi da goccia, oh. Anda per anda. Non ci abbiamo di tutti i cari, dai. E da chi? E se vuoi non si è sentito oggi, sto. Ma te mai sei così basso? Basso sono, sto usando il fisso. Il fisso sto usando. Forse allora è lontano dal microfono, poi se non ti intendia. Era più basso, era il microfono, era lontano dalla bocca. E signor Figaro, a mangiare è andato. Scusa, non si sente nessuno. E allora, Bacchi, cosa abbiamo fatto di bello oggi che c'è una bella giornata in campagna? Stasera, oggi era bello, l'esfogliatore a nastro, tutta la mattina tagliando erba. Eia, meglio così, è tutta tagliata te la. E ce l'ho ripeto, ancora 2000 metri da fare, l'ho iniziato appena un pezzettino. 2000 metri ne ho, grazie a. Se mi l'avevi fatta, gli avevo aiuto, ha dato una mano. Purtroppo non ce la faccio, anche per svagarmi, non il busso va, se no già sarei venuto. Tanto per svagarmi un po', ma non ne posso fare. E vieni, fai il direttore dei lavori. Ah, il dirigente, e operai quando tu vieni giù. Operai, uno è mezzo disgraziato puro, Non convieni, no, anche io sono le brasserico. Pidi un cartone di ruolo così, butti si per una cosa che non andrà come ti vuoi fatta. Bacchi. Attore, potremmo, grazie attore. Che giovane. Giovane per le speranze. Beh, vedi, Tore potrebbe guardare qualche cantone. Certo, bebè. Ehi, penserà così. Non andrà bene, no. Certo, se più di qualche cantone mi devo portare io. E tanto non so come a dirigere. Cadere in falegnameria che si ubbizzino, poverino, in serusia, che è molto. Allora quando mi girava, quando lo facevi a trotta, e mi diceva, meni via, ma cosa c'hai, io non ti ho fatto niente, lui da me va, sai che non si vendi nulla. Ma io sono di che riavi, tu. E allora, papà lo trotta di più, a chi gli ha dato i pariati, si attraversa la mesa e si mangiava una boccaccia. Ah, potevi farmi a fammi. Ma siccome ti arrivi a fuori di un cancello, ero già chi mi ha detto, arrivi in macchina e ne dai a mangiare e bevi birra. Allora tu mi accusi. Potevi aver abitato così. Più presa con la carriola, da rivale, grazie a Robongo. A quelli di sono c'è presa minuta che fai in giro, venisse a farci i carrioli in tutta la rivale, ma ne vuoi accorca. E poi mi stiamo posto in campagna a quelli presa. Ti dice, ma scusa, ma ormai non si vede un caffè, un latte, un tè. Capita, ma non ti sei cucato da rio. Sei magnini. Voglio fammi. Già mi ha giù vinto un caffè. Ma va, voglio fammi. Ma tu vai sempre fammi. Un bel di volte impari a dirci a fuori un cappannone, andati al cofano della macchina. A cofano a becchio. Li fate usare la trappa sul cappannone e trubizzi in capo. L'unica boccaccia canta un brazzo. All'otto di Manzano. Stughizzo. Compreso hai so, che stughizzo me. Sì, oggi compreso io, sì. Certo, bebè. Andiamo, me, andiamo. Su Manzano oggi mi scompaggio. All'otto, hai ancora in pulla in mano. Svinti, in voce, compressore, preamplificatore, valvolare. Fai un baracchino. Amplificatore valvolare. Mini dri allora min dripiti a Fannapoli. E voi c'è compressore preamplificato valvolare, 350 euro. 350 euro? Ma si usa Savannuta. Pare il nuovo nuovo, è tutto illuminato, tassini verdi, pomelli, un po' di cosa va. E a cosa serve? Ah boh, non lo so, grazie, amplificatore. Ce n'è un lineare, ce n'è un lineare senz'altro. Oh, sicuramente, a chi tu vedi è pieno di baracchini, vintenni, microfoni, ne ha poco di cosa. No, ma c'è stato un lineare. E qualche duro se lo sta vendendo, no, guarda te, c'è a vedere di dove è. Non so, a vedere chi lo sta vendendo. Allora, vediamo dove è. Riola Sardo, Sardegna. È unito Riola, nel Nuorese. Dove essere nel Nuorese, Riola Sardo. Dove essere nel Nuorese. Sì, sicuramente. Giovanni, riprendi. Ecco, ma chi sei io? Non lo sento. Ma chi non ti sente, Gian Maria? Come mai? Cosa ne so io, Gian Maria non mi sente. Mi sentiva sempre, oggi non mi sente. Gian Maria, dici che lo sentivi sempre, oggi non lo sente. E con l'altro, lui. Cosa ti dice? È basso, arriva troppo basso, non si capisce cosa dice, capito? Poi mi sento tutti bene, cazzo. Lui lo sento. Quasi non lo sento, non si capisce ciò che dice, capito? Ma chi già ha detto che non ti sente Gian Maria? Ma tu lo senti. Dice che non capisce quello che dici perché sta uscendo un bel basso. Ma io non lo capisco Gian Maria, no? Mi ha sentito le altre volte, sempre la stessa questione, cioè. Non ho cambiato niente, no, né migliorato né peggiorato, sempre la stessa roba. Fino a ieri abbiamo parlato, o avantieri, e mi sentivo, oggi non mi sente, vuol dire lui che è in zona buia. Ciao Maria, non la senti, ti ha detto chi è, come ti rimane, vuol dire che sei tu che non intendi, e tu ti intendi. A te ti sento Graziato, non lo sento, a tutti e due sento a fondo scala, lui boh, nemmeno mezzo stacchetto, nulla, sento che sta parlando però non si capisce. Sì, però strano perché non ha cambiato niente, mi rimane l'intendi, l'altro di l'intendi e oggi non lo intendi, boh, non ha cambiato niente di niente. Chi? Prova a avvicinarti di più il microfono alla bocca a vedere se ti sente. Sì, no, adesso me lo mangio e via. E ce l'ho a 2 centimetri dalla bocca. Vabbè, lasciamo così. Avare intendi, Gian Maria. Come vai? Prova a parlare, Bacchi. Sì, prova a parlarci un po'. Ah, poi, Grazia, cos'era quel paese lì? Stavo guardando la cartina. Ah, Riola Sardo, mi stavo dicendo. Sto guardando la cartina a vedere che zona è. Riola Sardo, mi sembra... Riola Sardo dovrebbe essere nella zona di Olena o Fulli, per Burbasardo, tantissimo tempo fa, di quella zona lì. Olena l'ho trovato, Olena è al Nuoro. E tu metto Riola Sardo. Dunque dovremmo essere in zona. Dovremmo essere in zona, dovrebbe essere qualche paesetto piccolino. Capito? Questo Riola Sardo l'ho sentito altre volte però. Olena è piedi di Nuoro. Vai su, giri a destra, scendi giù, fai un po' di curva e arrivi su. È vicino Olena. Da Olena si vede il Buru Nuoro. Me lo ricordo benissimo perché andavo a fare una ventina di clienti lì. E tutte curve però, è brutte pure. Cosa Gian Maria? E tutte curve, è brutte pure. E tutto curve, è piedi di Nuoro. Poi una volta che arrivi a Olena fai le salettine e tutto curve e vedi anche Nuoro da Olena. Come distanza non è lontano. E chi c'è la strada che fai a tutto curve, pare che non arrivi mai, ma una volta che hai fatto le curve sei già ai vivi. A voi avete già andato, vado mangiato pure un bel buffi in casa di una signora che fa tipo trattoria e si pagava una fesseria. Ti da zia mangiare, ma fare buffi di tutti i siti da zia. Ribredito! Ore, tanti anni fa, così è. Ehi, quando viaggiavo che facevo con l'etame a mangiare, molte volte se ne zona passavo lì. Andava bene, andava bene. E cosa c'è a Nuoro? Perché tu, Grazia? Nulla, io quando andavo a consegnare, no, facevo anche il giro dei paesi del circondario di Nuoro, capito? o facevo Nuorocità oppure qualche consegna a Nuorocità e circondari, paesi, Oliena, Dorgali, capito? Tutti quei paesi del circondario di Nuoro e poi rientrando. Altri tipi. E adesso ho migliorato anche le strade e si cambierà più bene anche pure, dai. No, come 30 anni fa e 40 anni fa, per carità. Già lo credo, va una passeggiata, cioè anche gli ultimi anni che l'ho fatto era già una passeggiata, perché avevano fatto tutta quella superstrada, capito? E dunque, molte volte quando facevo il giro Olbia a Siniscola, da Siniscola poi salivo a Nuoro, avevano fatto quella superstrada e già era più scorrevole, più veloce. Prima, tanti anni fa, era tutto Olbia, da Siniscola a Nuoro, via, mezza giornata, via. Ha imbucato tutti i sicuri ad andare a San Nuoro. Ma da Olbia a Nuoro c'è la superstrada, vedi che, vedo un po'. E dalla 131 c'è la superstrada lo stesso per andare a Nuoro. È tutto migliorato, tutta un'altra cosa, dai. Adesso il giro viene più corto e si lavora anche più bene. Vai tu! Arrivi subito, arrivi. Autostrade, tu canto, strade nuove. E arrivi subito, arrivi. Quando li faccio io, vado per esempio da Nuoro, se poi dovevo andare a Ierzo o Tertenia, quelle zone lì, perché poi facevo l'orientale sarda. Allora era tutto curve, da una montagna all'altra, curve, contro curve, salite, paeselli, gairo vecchio, gairo nuovo, per carità, oi. Vivo lì a Ercole a girare un marubio e che ci guida, alla sera va via, le brazze di Ulco. E la corona era bavolo da razzino, quando passava solo la carriera. Ehi, più di uno in agio rampato, oi, per carità. E la pensi imbecilli, ma ci passa il camion lì? Sì, ma l'occa già passa, arrivi in chiave, oi, le buzioni da fare i buzioni. Ma adesso hanno rimodernato tutto, in qualche paesetto ancora sono così, ancora proprio all'era di 40 anni fa, per carità, però la stanno migliorando, vai, vai, ma chi? Sto cercando sempre questo cavo di Rio da Santo, lo dice Ciappallo. E magari non c'è neanche in cartina, perché guarda che molti paesi, mi ricordo io, nel Nuorese, adesso non ricordo i nomi, c'erano certi paesi lì, cosa di Bosso di Desigazzi in Croce, chi ma che si sia la cartina, lo sapevano solo la gente della zona. Sì, ma deve essere qualche paese piccolino, Però l'ho sentito già un'altra volta questo paese, non riesco a inquadrarlo. Di Sardo ci sono tante, ma Riola non si vede proprio. Guarda che io sono andato in certi paesetti, chi parla che non aveva mai visto né un camion né un cristiano. Mi rammetto con questo man turbo tre assi, rubava breccia, era enorme quel camion, perché stavo tutta la settimana in giro, no? Nel Nuorese, sino all'Oliastra. E poi risalivo andavo a Cagliari, che ricaricavo a Cagliari, o salivo a Sassari e rifacevo l'orientale sarda. Va via la scritta, se Dio vuole vale e torno, se ti vedi si buriano in ginocchio e si fa via in un nome del padre. Poi la viola il colore di quel man turbo tre assi che c'avevo. E mi buri a ridere, con di rubacchino. Che ma ci venivo a Baracchino finire, grazie. Io la Giuseppe avuto in un camion, sempre avuto sia in camion che in macchina, nel 127, nella Duna e nella Punto. E in camion, tutti i camion che oggi la Giuseppe avuto, stereo e Baracchino. Quando girava io, con un Ducato, non disegni, non registravano Baracchini. Nemmeno telefonini, non si servono niente. La radio, lo stereo della macchina, stereo, radio, lo stereo. radio solo in sistema massa, ma tu evidentemente dopo magari giravi in quella zona, capito? Io quella zona, se partivo da Cagliari, caricavo quel man turbo 3 assi, 12 metri, il casone era enorme, poi c'avevo la centina sollevabile. Dovevo fare tutta quella zona, anche le frazioni, ogni minimo pacchettino. E poi facevo negozi, ristoranti, campeggi, villaggi turistici della costa del mare. E poi all'interno facevo tutti i paesetti, anche le frazioni. Pulgusegni in senso in campagna, chi fa di chilometri e chilometri, ma un pacchetto. Ehi, ehi, ehi. Ehi, Giammarì, ehi. A te sei su paesi. Certo, io Sant'Antoni. Ah, durai, Bacchi. No, rimani in provincia di Oristano. Provincia di Oristano, perché io la Sardo, dove sei, sì, in provincia di Oristano, non Nuoro. Non mi ricordo adesso, sono tutti i paesi che ha girato. Ha girato un paese, non mi viene mai a mente. Bellissimo, infatti io ho chiesto lì, ci sono le montagne tipo in America. C'è un rettilineo lunghissimo, esci da una galleria e imbocchi questo rettilineo lunghissimo, tutto in piano, sulla destra sono le montagne come in America. Infatti lì ho chiesto nel bar in quella frazione e mi hanno detto che lì girano anche film western. Aspetta che prendo l'altra cartina, Tom, che voglio vedere l'altra. Ma tu dovevi vedere quelle montagne, tipo le montagne dell'America, uguale identico, poi una pianura estesissima, proprio sembrava il Far West. Ma è quella zona di Nuoro, Orgoglio, tutta quella zona è tutta rocciosa, montagne che non finiscono mai. No, questa era più giù, verso dopo Tertenia, quelle zone lì, quelle zone lì era questo che ti sto dicendo io. Adesso sarà tutto cambiato, sono 2 anni che non batico quelle strade, magari si apre anche da parte la mette Dio, dice questi paesi, eccetera. Molti anni sono passati adesso, per cui tutto cambiato, case nuove, vie nuove, strade nuove, per cui è tutto diverso la questione. Vai, ma chi? Invece dall'altra zona, quando vai a San Nicolò Gerri, Ballau e Scalaplano per Zazebugu, poi per Zazebugu si c'è Ierzo, Armatax scendeva a Tertenia, Orosei, tutta la costa lì anche, la girata un po' lì, specialmente a Muravera, al periodo degli aranci, caricavo le arance lì, e poi le risalivo dalla 131, da Cagliari. Sì, provincia di Oristano, Oh, figurati, sarà le 4 case in croce, magari 30 lo stagno. No. 2126 persone. Se provincia di Oristano non sono persone, sono zinzuri. A Isarena mai ci è andato, grazie. Dove? A Isarena. Ci sono andato, adesso non mi ricordo. Io la Sardegna l'ho girata tutta, un minimo guzzuru, tutto me. C'era il tio che l'inverrante, il tio ne approfittava che agattava certe zone da spettacolo, sui Hawaii, e allora sarrava un dendone, mangiava il ristorante e mi saziva a mare, perché sapevo che poi, quando ci ritornavo, posti bellissimi. Isarena, provincia di Oristano, tra Cugliari e Torre Grande, e su per giù in quella zona, dove facevano i film degli indiani, vicino al carcere, è tutto recintato lì facevano i film degli indiani, facevano fai Sarena? Io tutta l'ho girata la Sardegna, all'interno l'ho tutto girato, burro di montagne, di campagne. E quando ero da Tessone, Rumatese, facevo da Tessone, facevo le miniere, i frantoi dove fanno la ghiaia. E cosa non ho più fatto? Di tutto per portare il gasolio, il gasolio, la benzina, anche quando era l'Agip da Tessone, quando ho lavorato alla ESO. Mi si mandava negli luoghi, non c'era questo, l'ultimo zecchino di Gesù Cristo. A chi ero l'ultimo entrato, no? Ma chi hai io? No, stavo cercando la cartina, non l'ho trovata. Anda bene a me, dice che è in provincia di Oristano, ma non me l'ho detto io che era in provincia di Oristano. Dunque, siamo vicini di Grazia. Un salto si può fare ad andare a vedere questo amplificatore. E cosa ne fai? Ui, la gabbia di bacchi, la c'è robottia. Chi conta fa a vedere il compareggio? Ui, si chi sei campagnolo, si è di chi sul paese va tutto. E cosa ti comprerà bacchi? Cosa? A Rio Lassardo, di Graziano, ho visto un preamplificatore. È senz'altro un lineare. 300 euro, le vendendi. A chi? Se già fai un paio di foto di cavolo, sei a posto. Ma cavolo, la vennaggio, la fava fra poco, va, se ne posso dare un faccio di chilo di fava. Giusto, vedo un po', chiedi contatto e spedi l'affare subito. Grazie, si può fare? Se può fare, la Sardegna ci chiama da SUD per chi vede i libri, il telefonino, vendo carciofi 10 euro la cassa, 30 carciofi nella cassa. La ci chiama della tasca, me la porti una cassa, ma primo taglio, freschissimi, però per una cassa a Sassari non ci salgo, se vuoi te ne porto 5, cosa c'è di mangiare, cazzoffa, la capisci, dai ti riera questo. E tu devi comprare che si pone a Buddy Buddy, vicino a Graziella, vicino a Graziella. Il carciofo è teneri, la carica ci ho comparato, mi voglio la motosega tagliarli. No, quelli che ho preso l'altra volta me li ha portati quella ragazza dalla Buddy Buddy, con ragazza, abitano lì alla Buddy Buddy. E 10 euro, 30 carciofi. Mi aveva pigliato due cazze, ne l'avevo preso, poi me li ho divisi. Tennari, tennari, breche, buona rete. Tu intendi che ti vuoi dire la motosega tagliarli? Ma intendi, reagite, tu che feccia, sono già passati. No, è primo taglio, voi a primo bello, voi, non primo taglio. Infatti, mi ero bello quando finiva più, tra poco ci sono i fiori. No, questa ragazza mi ha detto, adesso come le va le patate, che le ho chieste, già mi telefona a Rigamiglie. Lei dice, ma quando esce, quando le fai, fammelo sapere. E già mi telefona, ancora non mi ha chiamato, vuol dire non era cavato una patata ancora. Vuol dire non finire la roba buona. Se una passata in Siria, sì, no, non finire la roba buona, non te ne tocco. No, le hanno piantate, però non erano invate ancora. Dobbiamo controllare se erano invate. Come sono fatte già mi chiama, no? È una ragazza come per bene, no? È una coppia. Capito, sto quasi per bene, mie, avanti. Sì, ragazzi, io sono Guzzarrelli. Ci sentiamo domani, se andate. Ok. Anch'io so chi è, vai. Vi saluto cordialmente, ciao Tore, ciao Bacchisio e ciao Graziano, chiudo, vai Graziano. Ehi, scarpi, stanno ti manco legge, va bene, mi va bene pure il suino, buona cena a tutti e tre, e ce la presentiamo a domani, saluti, bacini ai bambini, alle bambine, a domani, riprendi Gian Maria. Gian Maria ha chiuso, bene, salutiamo Gian Maria, ciao Gian Maria, buona serata, buon QRT, saluti in casa, a domani ci coincide. E anche per Tore la stessa cosa, Tore, saluti in casa, saluta la signora, a domani. Anche Graziano la stessa minestra vuole per tutti. Ciao Graziano, buona serata, buona insulina, buona cena, buon tutto. A domani, anche Bacchisio faccia in QRT, è arrivata l'ora del merendero. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao Graziano, ci sentiamo, ciao Bacchisio, ciao Gio Maria. Ok, ciao Tore, ciao a domani. Ciao Bacchisio, ciao Graziano.